Voci dal Giro. Buongiorno e benvenuti da Paolo Pancieri a questo aggiornamento da Giro d'Italia. Domenico Pozzovivo della Colnago ha vinto per distacco l'ottava tappa, la Sulmona Lago Laceno, di 229 km. Oggi invece si corre da San Giorgio del Sannio a Frosinone nel Lazio. Tappa lunga 166 km. Nona tappa da San Giorgio del Sannio a Frosinone e oggi molto probabilmente si tira il fiato, anche se in questo giro di battaglia fino ad oggi ce n'è stata davvero pochina. Si attende l'ultima settimana e nel frattempo si raccoglie quello che c'è, cioè poco. L'altro ieri un bel testa a testa sul traguardo di Rocca di Cambio tra Tiralongo e Scarponi. Ieri l'acuto prodigioso della pulce lucana Domenico Pozzovivo, che con i suoi 53 kg distribuiti su 165 centimetri si è trasformato in gigante andando a cogliere la sua prima vittoria in carriera al Giro d'Italia. Si riparte col canadese Ryder Heisedal in maglia rosa. Tappa di soli 166 km oggi, adattissima ai corridori veloci, tappa in pratica di trasferimento senza grandi difficoltà altimetriche che sorride al campione del mondo Mark Cavendish, il quale insegue la terza vittoria personale in questo giro, molto poco generoso. Si attende un nuovo atto della sfida tra l'iridato dell'isola di Man e il resto del mondo, ma la speranza è anche che qualcuno riesca a scardinare il lavoro delle squadre dei velocisti e possa regalare qualche emozione in una tappa che promette poco in questo giro che guarda domani e anche oltre. Pieragusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Frosinone. Ed è tutto per questo aggiornamento dal Giro d'Italia. Voci dal Giro.